infelice ove fuggo, ove m'ascondo, son vinta e vilipesa. Ingiusto cielo, immortal mi facesti, ed il tuo dono rende la piena mia cagione eterna, perché immortal sarà meco il mio duomo. Il feroce nemico in braccio al sogno, cielo giusto ordinò che a mia vendetta apri pietoso il varco. Cado da grande, or che la mia ruina meco ti opprime. Ferrai di qualcina, Rugger, che vedo? E meno Dio Ruggero, ma venir tuo persecutor più fiero. Alderico, amor mio, in mirvisa, Bradamante, la tua più grande nemica.